su rime sopra questo beat. Yeah, mi molluterò now in the street with a rebellion and combination style. Listen now the song and come on, baila. Sento il ritmo che mi tasi al cuerpo. Mi sento vivo, no, non ci sono muerto. Sito MC, mostra caso in fase. Si letta, no, no, no, no, cangia la base. Scrivimo, cantiamo e poi la ballamo. Ti rimi sopra un rimi, ci fa un good compamo. Ti arresta la risposta, creatore, chi sarà di? Puttamo nome, buono di musicanti, stampalati di cristalli. Ma ci vuole dal normale, con chi mutra la danza. Ogni particolare che ci porta sempre ad affrontare le difficoltà. Amici, sì, ma con infami, nessuna pietà. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. E sta musica mi fa già stare bueno. Simo come frati e vivimo sopra stu sueno. Radicato nel sud, piccolture, pidialetto. Parlo come KK senza alcun rispetto. E' una situazione buona sta danza paesana. Si cavano lunedì e poi tutta la settimana. Nibiti di ballare sopra la luna. L'umimo quasi sballa senza manco con fuma. La danza continua, la speranza accompagna. Nessuna violenza, solo pace tra la stanza. Dove stanno racchiusi i nostri ideali? Solo così buone e giusti, senza effetti collaterali. Troppo mesi e mesi ancora noi stiamo a cantare. Che quando non pudimo si chiama sclerare. Di sta terra soleggiata portiamo innanzi la bandiera. Li terroni ribelli a cabuti la sua frontiera. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Intreccio emozione, vi regalo canzoni. Mono son basta basi con l'odro bagnone. Canto con duca sento su un frallucore. Pensieri, parole, una missione d'amore. Ne ho già scritte tante, tante altre ne farò. Smettere una parola che non conosco, no no. Godo nel sentire la mia voce sulla base. Insieme ai fratelli terrore, beh, sì mi piace. Terruni, noi simo e con l'odri li vantamo. Dialette e tradizioni purtamo, don cacciamo. Orgogliosi di sta terra e ti rifrutti, cadai. Stu posta mamma e non lo smetteremo mai, mai, mai. Un posto tra firmia, ormai è fermentato. Di un gioco tutto era nato, ma certezza gli è diventato. Sempre più uniti tra sta setta di ribelli. Original from Sanea, salutiamo fra. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene. Andiamo a spasso con le nostre rime. La penna in mano non scriviamo a fiume. Non ci interrompere non ti conviene. Niente di male facciamo del bene.